La luna brilla già sul sentiero, è l'ora d'amar, cerca presto d'arrivare, da lei che vedi già col pensiero. Sul tuo cavallo vola leggero, t'aspetta laggiù la fanciulla del tuo cuore per darti il primo bacio d'amore. E va che t'accompagnerà il dolce canto dell'usignol. Vicino a lei stanotte sembrerà ancor più bello e limpido il cielo. La luna brilla già sul sentiero, è l'ora d'amar, cerca presto d'arrivare, da lei che ti farà prigioniero. Accompagnerà il dolce canto dell'usignol. Vicino a lei stanotte sembrerà ancor più bello e limpido cielo. La luna brilla già sul sentiero, è l'ora d'amar, cerca presto d'arrivare, da lei che ti farà prigioniero. Cavalca vaquero, cavalca vaquero.